YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Eccoci qua, Daniele, eccoci qua, che meraviglia! Allora, che preferisco del nostro l'altra sabato, metà del sabato del villaggio. Allora, ti piace come definizione? L'altra metà. Sì, perché poi adesso che in questo periodo facciamo un'ora e un'ora ci sta. L'altra metà. No, e poi chi lo sa. Allora, Daniele, chiocciola Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio. Cancelletto Radio Tube. Lo so che ne hai parlato tanto, però due parole di Paolo Villaggio. Che nel sabato del villaggio, peraltro, si chiama anche così. Lo sai che la sua prima trasmissione radiofonica nel 1968 si chiamava Il sabato del villaggio? Radiofonica? No, non lo sapevo. Si chiamava Il sabato del villaggio perché insomma, diciamo che per lui era ancora meglio questo titolo. Sì, era una prima trasmissione radiofonica perché lui aveva cominciato con un lavoro normale, ma lui partecipava alla Goliardia a Genova, aveva certi amici tipo Fabrizio De André, poi era stato notato da Maurizio Costanzo e una delle prime cose che ha fatto è stata la radio. Sì, poi con Costanzo. Ecco, io devo dire che di Paolo Villaggio amavo tantissimo quando faceva l'ospite, cioè quando faceva l'ospite nelle trasmissioni televisive, memorabile in quella di del nostro collega Giuseppe Cruciani alla Belva, era veramente diverso da tutti gli altri e ogni volta, pur avendo un cliché che un po' ripeteva del vecchio saggio burbero, antipatico, scorbutico che diceva la verità, silenzia insomma quella cosa lì, ogni volta era un po' originale, cioè ogni ti volta posso aggiungeva dire che però tu cioè io l'ho intervistato più volte. Sì, io no, io a me. Beh, sai, a me per lavoro capitava sicuramente di più. E a te non piaceva quell'aspetto? No, e io avevo molta paura. Paura, certo. Ma anche a me faceva paura. Ma infatti a me piaceva perché incuteva un po' di paura, poteva fare qualunque cosa. Sia timore reverenziale, sia paura, perché poi aveva quella. Posso dire che il personaggio che faceva nelle ospitate era un po' l'opposto di quello che faceva di Fantozzi. Sì, che vuol dire che lui aveva una grandissima capacità inventiva, capacità narrativa che secondo me era sia nei suoi personaggi sia anche un po' in se stesso, perché aveva poi dipinto quel personaggio lì di burberone. Sì, anche perché poi secondo me il suo genio derivava dal fatto che sennò si annoiava. Cioè, certo. Se tu sei ospite a una trasmissione televisiva e fai l'ospite, reciti la parte dell'ospite, più o meno ti incaselli in quello che il conduttore si aspetta tu faccia, ti annoi. Allora lui, siccome poi doveva stare un'ora e mezza lì durante la trasmissione, per non annoiarsi tirava fuori il genio. Che poi è vero, sai che bisogna imparare a fare gli ospiti in televisione, non è una roba, quello è un mestiere, non è un mestiere, cioè, è una cosa impressionante. E bisogna anche imparare poi a uscirne, perché poi molto spesso l'ospite che tu sei quando vai in trasmissione, tu che vai spesso, ma appunto, anche in importanti trasmissioni, certo, dirai uno anche, e dopo uscirne è difficilissimo. Allora ascoltiamo un po' alcune delle sue affermazioni. Chissà quale avrei scelto. No, ho scelto delle affermazioni secondo me che davvero raccontano molto dei suoi desideri, della sua visione del mondo. Eccolo qua, Paolo Villaggio. Alla mia età ormai quello che conta è avere la possibilità di aver lasciato un segno, soprattutto nel linguaggio e soprattutto nel far ridere in una maniera assolutamente, a mio avviso, atipica. Scusi, che danno stasera? La corazzata con Tomkin. Vadi. Fantozzi non è un personaggio comico. Fantozzi è un personaggio tragico. Difatti lui è l'uomo più sfortunato in assoluto che la letteratura italiana abbia mai vissuto. Qualunque cosa lui faccia andrà a finire in maniera catastrofica, sa quale sarà il suo destino, eppure corre disperatamente alla settimana bianca, al mare, e finirà in una maniera oscena. In sella, alla bersagliera! È più fortunato ed era in fondo anche più felice. Veramente, nella sua piccolezza, moglie con alito fognato, signorina Silvani, eccetera, lui era più felice dei ragazzi di adesso. Le manca la triglia. Posso avere l'onore io. Glielo concedo. mi raccomando, sia sempre rispettoso e fedele. Sì, onnipotente. Che allora, la cosa dire? Secondo me meravigliosa era il fatto che lui non riusciva mai, ma provava sempre, cioè, e comunque era più felice, si rialzava ed era più felice appunto di tanti altri, perché lui comunque il suo tentativo lo faceva. Gli sport li ha fatti tutti, con la signorina Silvani non demordeva, anche se insomma era solo una presenza angelicata. Era comunque un personaggio estremamente positivo. La cosa bellissima che mi è capitata ieri sera portando fuori il cane è che in una libreria antiquaria, dove c'era, giuro, Victor Hugo i Miserabili in un'edizione non mi ricordo di che anno, Piccole donne in inglese non mi ricordo più di che anno, c'erano i libri di Fantozzi nella libreria antiquaria, ma come fossero, cioè, e secondo me era giusto, cioè non era fuori contesto. Certo. Incredibile. Che belle quelle edizioni degli anni 70. Sì, esatto, che meraviglia. Sì. Senti, dai, non facciamoci incupire, parliamo un po' di pettegolezzo. Parliamo un po' di pettegolezzo. Io non nascondo le mie preferenze femminili, no? Allora, quelle calcistiche pure. Allora, quelle calcistiche le sappiamo. Ecco. Per quanto riguarda le donne, c'è, secondo me, la donna che più fa sragionare Daniele Bellasio. Bene. Basta il nome e gli vengono gli occhi non a cuoricino di più. Sì. Questa settimana, purtroppo. Gli ha spezzato. No, ma sì, ha scelto una persona di una fede calcistica, esatto, sbagliata, esatto. Quello è il punto. Non è che gli ha spezzato il cuore perché c'ha un nuovo fidanzato. No. Beh, la introdurrei così. Appartengo, io ci tengo, se prometto poi non tengo, ma appartieni se ci tieni, tu prometti e poi non tieni, prometto, prometti. Ti giuro amore, un amore eterno, se non è amore me ne andrò all'inferno, ma quando ci sorprenderà l'inverno, questo amore sarà già un uccello, lo grido. Beh, gli ha spezzato il cuore, Ambra, perché non ha scelto un interista. No. Vabbè, non facciamo gossip in questa trasmissione. Ha scelto niente, non si sa. Era in vacanza con l'allenatore della Juve. Ma aspetta, cioè, per un interista innamorato così, poi lei è romanista, ovviamente, capisci? Di Ambra, ma proprio, poi lei è romanista, capito? Vabbè, ma Cristian Rocca cosa ti ha detto? non ho neanche commentato, ma il punto, collega direttore di Il, che salutiamo, Bobbo lavora, cioè, già litigavate su Allegri. Comunque posso dire che un amico interista mi ha mandato, sai, quelle cose, non so neanche come si chiami, quei specie di fotomontaggi con le foto e gli slogan, no? Ah sì, meme. C'era la foto presa da quel noto settimanale di Ambra con Massimiliano Allegri e poi c'era scritto Ambra, quella... l'allenatore della Juve. Perché io quando lo scrivo metto Ilunga asterisco e per non dire la parola. Comunque c'era Ambra con scritto quella di non è la Rai e poi c'era Allegri, quello di non è la Champions. Piccole soddisfazioni. Vabbè, senti, comunque questa è la notizia della settimana, noi io scherziamo, appena, ma mi è arrivato il comunicato stampa. Comunicato stampa, sì, quello che ti ho girato subito. La prima cosa che mi è arrivato via mail, non comunicato stampa, non della relazione, ma di chi che l'ha svelato. Leggo la mail e il mio dito è andato subito su inoltre Bellasio. Io confesso che su social qualche foto l'avevo già vista, ma pensavo che non fosse così certa la cosa. Vabbè, succede, è estate. Allora ragazzi, abbiamo riso assai. Tra poco parleremo un po' di calcio, perché parliamo di TV, quindi e calcio oggi non si possono scindere. Facciamo una pausetta e poi torniamo insieme ancora. Direi per il traffico la facciamo stavolta. Ma sì, dai, facciamo il traffico, facciamo il traffico. YouTube. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Ah, questo ragazzo della via Glu. È il ragazzo della via Gluck. Ho detto ad Andrea Roccabella: Andrea, tira fuori un Celentano che ti piace. Ha scelto il ragazzo della via Gluck, Adriano Celentano. Anzi, Adrian, caro Daniele Bellasio. Non so dove vuoi arrivare. Allora, per Monte Carlo? No. Sì, Monte Carlo. Sono stata a Monte Carlo, ho fatto anche delle foto. Ho fatto una foto con lo sfondo degli yachts. Io al mare, che non ci vado al mare mai, però lo sfondo di yachts, bellissimo. Allora, i caro Daniele, palinsesti di Mediaset, perché avevamo raccontato i palinsesti della Rai la settimana precedente. Questa volta ha svelato le carte Mediaset. Serata bellissima, Monte Carlo, una Mediaset è proprio esperta nell'accoglienza, nella cerimonia dei palinsesti, è molto rituale, diciamo così. C'è una conduzione, c'è un... come funziona? Guarda, o è, no, o è allora, più simile a una conferenza stampa? È più simile a una conferenza stampa, a condurre le danze Paolo Calvani, che è il direttore della comunicazione. Che sì, ciao Paolo, fratello, bravissimo. A questo proposito. Ovviamente. Che e poi ci sono tutti i vari direttori, il direttore dell'informazione, il direttore eccetera, che Pier presentano Silvio, Berlusconi. Ovviamente Pier Silvio, poi arrivano anche i direttori delle reti, ma insomma si presenta un po' l'offerta in maniera così coordinata delle TV, delle radio, perché ovviamente anche loro sono entrati nel business delle radio, facendo capire che la radio è un mezzo modernissimo. La radio gli ammolla. Ti è tutti quelli che dicevano che la radio era morta. Ma chi lo diceva? No, vabbè, a lungo si è detto che la radio non dicono aveva più quella pill. Dicono le newsletter, i blog, i social, tutto. E tutti tutto vogliono andare a lavorare alla radio, ecco. Adesso tutti che vogliono andare alla radio. E poi l'online, perché loro puntano moltissimo su TGCOM24. E la novità, che è questo Mediaset Play, del quale ti dirò tra poco, perché secondo me è interessante per quanto riguarda un po' la futura modalità di fruizione della TV. Ma dicevamo Adrian, cioè ormai era diventata una sorta di tormentone, sì, cioè, da anni ormai. Anche un po' di mistero, cioè esiste o non esiste? Esatto, io ne ho visto un minuto e mezzo. L'ipotesi complotto. Sì, un minuto e mezzo, quindi almeno un minuto e mezzo esiste. Sì, perché cos'è Adrian? È una serie animata. Sì. Sappiamo che è in 13 episodi, ma non sappiamo di quanti minuti l'uno. Ah, ok. Animata con lo stile di Milo Manara, che ha collaborato all'iconografia, le musiche di Nicola Piovani, la scrittura di Alessandro Baricco insieme agli studenti della Holden e la collaborazione del premio Oscar Vincenzo Cerami, che aveva collaborato alla scrittura di questo Adrian, di Adriano Celentano, che era stato annunciato anche qualche anno fa da un'altra parte, ma invece poi è approdato a Canale 5 e arriverà nel 2018 ed è ovviamente attesissimo. Era sorpresa? O c'erano rumors? No, c'erano rumors, però sai, quelle cose che vengono talmente tanto annunciate che poi dici, non ci credi più. Non avverrà, è avvenuto. E poi nei palinsesti Mediaset, cioè, guarda, ci sono i Gialappi, i Gialappi tornano a Mediaset Iene, giusto? Allora faranno una puntata delle Iene. Ah, okay. e poi si vede cosa faranno. C'è il ritorno di Nicola Savino, anche lui, è vero, insomma, anche vedremo lui viene, cosa c'entra. farà qualcosa su Italia 1, insomma, vedremo. Mentre vabbè, sappiamo che Camera Caffè e Luca e Paolo li avevamo già annunciati a Rai 2. Vabbè, poi Super Maria De Filippi, Maria De Filippi, Tu sì che vale, C'è posta per te, Amici, Super Paolo Bonolis, Music e Torna chi ha incastrato Peter Pan. Music che era stata una sorpresa. E sembrava un po' un antipasto di un Sanremo futuro di Bonolis. E invece... Ma no, chissà. No, perché tu dici che non, no, fa, non si sa. Ma no, non so, Sanremo è sempre un po' un mistero, no? È che si... ragazzi, io friggo, perché non si può arrivare a questa data senza sapere ancora. È troppo tardi? Tardissimo. Solo già, che quando io mi sono lamentata qualche tempo fa, mi ha risposto su Twitter il sempre informatissimo Giancarlo Leone, già direttore di Rai 1, candidati. Che, no, mi ha detto abbi pazienza. Lui adesso fa l'altro mestiere, adesso presidente dell'APT, che non è una roba turistica, ma è l'associazione dei produttori televisivi. Poi però mi ha detto pazienza. Vabbè, allora arriverà. Torna Scommettiamo. Te lo ricordi Scommettiamo che? Scommettiamo che? Chi era? Gerry Scotti? L'aveva fatto Frizzi? Può essere? Forse Frizzi. A me piace molto Frizzi. E poi un po' di fiction. In una fiction c'è Gianni Morandi. Ah. Che bello, come sono contenta che c'è Gianni Morandi in televisione. È bello che sfogli. Mi piace quando sfogli. C'è tanta roba. C'è Matrix. Matrix, eccetera. Sai cosa mi piacerebbe tanto? Di cosa mi piacerebbe tanto? Sono molto curiosa. Rete 4 ci sarà una docufiction sulla vita di Albano. No, stupendo. Ma chi lo interpreta? Sì. Madre mia, storia di un secolo d'Italia vista dalla famiglia Carrisi. Beh, questo è stupendo. Questo è bello. Questo è una grande... per Rete 4. Esatto, questa è una grande idea. Complimenti a Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4, per il quale io faccio sempre un tifo indiavolato. Ma Rete 4 ciao Sebastiano, è se ci stai ascoltando. A me piace Rete 4. Allora, quindi... poco calcio, ragazzi, poco calcio perché, perché il futuro non è di premium. Cioè, spiega questa cosa, allora, del poco calcio. Qualche anno fa Mediaset compra la Champions, quindi grande investimento sulla Pay TV, però pare che la Pay TV, insomma, sappiamo, da una parte ci sono i diritti della Champions che sono tornati da un'altra parte, dall'altra ci sono i problemi legati alla Fair Vivendi, e quindi premium andrà un po' a scemare col tempo e andrà un po' a confluire nell'idea di Infinity, quindi un po' più streaming online. E poi arriva questo Mediaset Play, che tra l'altro uno dice, vabbè, ma l'hanno copiato da Rai Play, invece loro avevano già Premium Play, quindi tutto sommato ce l'avevano già in Play loro. A me sembra un'ottima idea, sai, è un player appunto per vedere, un'app per vedere la TV in diretta. Sì. Per vedere un programma da capo se è iniziato, che noi siamo arrivati a casa un attimo in mobilità. Per scaricare offline, vogliamo vedere delle puntate di qualcosa che ci siamo persi, vogliamo ma preparare... Ma sto per prendere un treno, non lo posso vedere via streaming, me le scarico. No, perché treni mi riguardo. Treni, Bellasio deve fare treni, un abbonamento, esatto, deve fare diversi, treni tra diversi. Poco, a breve farà un lungo abbonamento di treni. Poi ci sarà la... chatbot. Ecco, giusto. Il chatbot, per il robot della problemi, chat. Praticamente, esatto, questo è utile. Esatto. Questo è utile. Quando... cioè dei risponditori automatici, diciamo, ma intelligenti, capaci di darti le risposte giuste, ci saranno sul meteo. E poi ad esempio sui grandi programmi come il Grande Fratello VIP, per dirti, voglio avere delle indiscrezioni e posso chattare con questo bot, con questo sistema automatico, ma molto intelligente e molto perspicace, che mi consente tutte le curiosità, quindi posso condividere, posso avere degli aggiornamenti, insomma delle cose. Cioè, quindi è la televisione che inizia a fare i social dentro la televisione, come i social iniziano a fare la televisione. Insomma, noi eravamo abbastanza avanti quando abbiamo cominciato a fare Radio YouTube. Esatto. E quindi... vabbè, c'è il live blogging, eccetera. Appunto, sì. Poi un'altra cosa, secondo me, estremamente interessante è che Mediaset si allea con un content creator di YouTube. Cioè, tutti questi queste factory, questi laboratori di contenuti creativi per la rete, no? I giovani YouTuber dei quali tanto noi parliamo, che hanno spesso alle spalle queste factory che così riescono ad aiutare la loro creatività e a creare dei contenuti nuovi. Per ora ci sono delle agenzie, delle factories appunto, dei laboratori creativi indipendenti in Italia, e adesso Mediaset comincia ad affacciarsi anche a questo tipo di contenuti. Bello, cioè giusto, il contenuto originale che andrà in rete. Insomma, mi sembra che ci siano delle cose molto molto molto interessanti. Poi vabbè, questa settimana scopriremo anche la 7, anche perché allora la domanda... TV SAT 2000, insomma. Allora, la domanda è: dimmi. Giletti? Ci siamo dimenticati. No. Allora, Giletti. Alla Rai, ma a Mediaset? Nah. No. Per ora no, sicuramente no. Vedremo. Restano se per caso TV va. Sat, la 7, Sky 8, quello di Sky. Vedremo. Tu dove lo vedresti bene? Io l'avrei visto bene, ma perché a me piace l'agonismo, quello che a te piace nel calcio, a me piace la TV. Io l'avrei visto bene la domenica pomeriggio su Canale 5. Sì, doveva proprio... capito, proprio... come succedeva un tempo, ti ricordi quando c'era la guerra ad avere i Pippi Baudi che passavano all'altro? Io mi sarei divertita così, sono una ragazza No, semplice, ma questo è bello, sono d'accordo, anche vivacità. A me sarebbe piaciuto così vedere. Così, vabbè, insomma, adesso facciamo una pausa perché abbiamo un ospite. ma non grande. Intanto altissimo. Quindi grandissimo. Grandissimo. Continuiamo a parlare di televisione, ma non solo, perché lui è, vabbè, uno dei personaggi più amati della TV italiana. Ha scritto un libro veramente bellissimo e tra poco molto particolare. Ce l'avremo qua. Lo diciamo il nome? Dai, diciamolo, dai, sveliamo il mistero. Roberto Giacobbo. A tra poco. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. YouTube. E arriviamo in una cappella laterale della Basilica di Orvieto. Siamo pronti, possiamo chiedere di aprire le ante e di vedere questa reliquia. Lui è uno dei volti, ma anche delle voci più amate della televisione italiana. Ha sempre delle idee che ci stupiscono, scopre sempre cose che noi non sapevamo e questa volta ha scoperto una storia. Io quando l'ho letta, vi confesso, per un po' pensavo che... Mi chiedevo se fosse vera. Io ho esattamente la stessa cosa. Ma sarà vera o ci sta raccontando? Magari sembra un romanzo, no? Quindi ho detto, ma magari è un romanzo. Vai in fondo e dici, no, la storia è un romanzo. Io ho controllato, è vera. L'uomo che fermò l'apocalisse. Adesso ci facciamo spiegare chi è quest'uomo che fermò l'apocalisse, di quale apocalisse si tratta e come l'ha scovato, dall'autore di questo libro, fatemelo dire, edito da Rai ieri. Buongiorno a Roberto Giacobbo. Buongiorno. Buongiorno. Ma che belle voci che avete. Ma che meraviglia. Ed è dopo che detto ha da lui. Un uomo, esatto, che ha veramente... Adesso voi lo conoscete come volto televisivo, ma tanta radio, Tanta, sì. Tanta. E per passione, cominciando proprio da non avevo ancora 18 anni, quindi tanta radio per passione, prima nelle cantine, poi nei sottotetti, poi alla fine invece le radio sono diventate più importanti e ho fatto tanti anni radio veramente. Sono curiosa di sapere cosa facevi, intrattenimento, notizie? Facevo intrattenimento e satira. Ah, vedi? Sì, mi divertivo, facevo l'università e comunque facevo un programma che si chiamava Questa casa non è un albergo, dove interpretavo tutti gli ospiti che entravano in questa casa, perché lavoravo non solo con la voce ufficiale ma anche con delle voci alternative. Ma fantastico. Prima di passare al libro, una mia curiosità, cosa ti sei portato dalla radio alla televisione? Cosa serve in televisione che hai imparato alla radio? Alla radio ho imparato ad andare in diretta per 14 anni tutti i giorni e quindi a improvvisare in maniera rapida e non lasciare i vuoti, perché come dire, per radio un silenzio è come un nero in televisione, no? E quindi bisogna cercare di riempire in maniera intelligente i vuoti. E allora quando ti rendi conto che stai facendo un ragionamento che necessita di qualche secondo in più, rallenti il tuo modo di parlare, cerchi di pensare, di stare sempre quei 3 secondi avanti in modo tale di non dire cose sbagliate ma nello stesso tempo di non lasciare da soli i radioascoltatori. In questo Marta è bravissima. No, è verissimo. E poi in televisione poi non so, ti chiedono sempre, ah, ma tu alla radio, ma chi sono i tuoi autori? Sì, diciamo che in radio il tuo autore intanto sei tu, certo, perché certo. Sei tu davanti al microfono. Tieni conto che noi al tempo registravamo le trasmissioni, le sbobinavamo, le davamo in SIAE dopo, perché il lavoro era molto estemporaneo, molto in diretta e quindi dei modi di dire del tempo poi sono diventati di tutti e quindi va benissimo, però ecco, sono nati in quell'occasione, in questa... Te le sei conservate le cose radiofoniche? Hai tenuto l'archivio? Sì, perché mia madre aveva la passione di registrare tutto quanto e allora lei stava a casa e registrava. Ho decine di cassette bellissime di quella storia. Vabbè, stupendo. Hai capito? Stupendo. Questa retroscena di Roberto Giacobbo che non tutti sanno. Allora, il libro. Davvero noi pensavamo, ce lo siamo detti in questo momento, che pensavamo fosse perché una storia. Siete malfidati. No. Ma comunque la verità è che sì, quando è bella, supera qualunque fantasia. Non c'è dubbio. Non c'è niente da fare. E pensare che una notte del 1983, una notte di settembre, era il 26, un signore che abbiamo scoperto solo decine di anni dopo ci ha salvato di fatto tutti, e scoprirlo dopo è come prendersi paura, come dire, ritrovare la tua patente senza sapere ad averla persa. È vero. No? Aver evitato decine di punti. Lo dico agli ascoltatori: Daniele Bellasio ha fatto la faccia di quella, di quello che a capisce, cui è capitato. No, che capisce esattamente. No, però è vero, esattamente così. Sì, perché tu dici: ma davvero è successo questo? Ma davvero il nostro mondo era nelle mani di una persona sola? Ma andiamo per ordine. Voglio sapere come hai scovato, ecco, la storia di questo allora, uomo. Di tutte le noi, cose, noi nel corso del nostro programma facciamo un lavoro di indagine, portato avanti da una squadra eccezionale, una squadra che nel tempo sono riuscito a mettere insieme persona per persona, specifica per specifica, capacità per capacità, perché ognuno di noi ha un golden share dentro di sé, no? Allora bisogna capire qual è quello giusto, e ognuno che lavora a Voyager è una persona che ha fatto dei passaggi importanti della sua vita. Qui ci sono persone che hanno fatto intere selezioni in Rai. Con quanti eravate nella selezione? In regia dicono 18.000, e lei è arrivata seconda, e lavora a Voyager. Seconda su 18.000, ragazzi. Ecco, quindi la selezione è fatta. Poi giovani. Beh, come si chiama a questo punto, diciamo? Si chiama Rossella. Grande. Seconda di 18.000. Esattamente. Anche terzo. Io anche se fossi arrivato terzo sarei io stato. Io dipende da quanti ne prendevano. Sì. Se ne prendevano 20, anche ventesima. Però per dire, e così dico a tutti, perché chi lavora a Voyager ha sicuramente una grande passione e grandi capacità personali, e io ho preferito fare una squadra di gente molto preparata. Sai che c'è gente che dice: voglio circondarmi di persone deboli così sembra che comando. Quanti ne conosciamo. Invece io preferisco circondarmi di persone molto forti che possano insieme a me lottare e fare qualcosa di buono, e allora questa è stata la strada. E cerchiamo tanto, finché su un giornale del 2010 una notizia di due righe è stata trovata di un signore che aveva preso un riconoscimento negli Stati Uniti perché era stato decodificato un file che invece era sotto copertura. E si diceva che questo signore aveva vinto un premio perché era stato coraggioso in un atto di spionaggio, diciamo. E dico: cosa è successo? Andiamo a approfondire, scopriamo che questa persona è viva, e vi dico solo che questa persona vive in Russia, e per riuscire a parlarci un nostro uomo, perché noi abbiamo degli amici in giro per il mondo, certo, se noi lavorassimo solo via internet arriveremo sempre secondi, sì, mentre noi dobbiamo arrivare alle origini delle notizie. Le origini le trovano gli uomini sul posto, e allora lui è andato per ben 10 volte in totale, ma 8 prima di riuscire a parlarci, dal centro di Mosca fino a questa periferia remota che sta a 50 km da Mosca in macchina, quindi faceva 50 km andare, 50 a tornare, per 8 volte ha fatto un viaggio a vuoto. Questo nostro collaboratore russo alla fine è riuscito, attraverso il figlio di questa persona, ad arrivare a Stanislav Petrov, questo signore che oggi ha 78 anni. Questo libro l'ho scritto insieme a Valeria Botta, e Valeria è stata determinante, perché nel momento in cui ci siamo trovati davanti a lui, dandogli la mano, in effetti questa mano non si è più staccata. Lui ha preso la mano di Valeria e si è, come dire, ha trovato quell'attimo di umanità che forse nella vita ha vissuto poche volte, e lui, tenendo la mano di Valeria, ha cominciato a raccontarci questa storia. È veramente stata una cosa importante e anche commovente, sapendo che quest'uomo la notte del 26 settembre del 1983 si è trovato per caso, perché lui sostituiva un collega malato e è stato chiamato all'ultimo minuto ad essere il capo delle cosiddette vedette elettroniche dell'Unione Sovietica. Cosa succede in questa notte? In questa notte Stanislav Petrov era nel suo ufficio, aveva 140 militari con lui, nel suo ufficio, nella sua sala comando, e aveva tutti i monitor intorno con i computer che controllavano il pianeta, controllavano tutto. Certo, certo. E non solo, era in contatto con le spie che erano a terra e che controllavano tutto. A un certo momento da un sistema di satelliti chiamato OHO, che era il più preciso e che mai aveva sbagliato prima, parte un allarme. È stato lanciato un missile dal cuore degli Stati Uniti verso l'Unione Sovietica. La previsione di impatto era 25 minuti, cioè un missile al tempo nel 1983 per attraversare quasi metà pianeta ci metteva solo 25 minuti. Quindi vi rendete conto cosa oggi sarà la tecnologia, appunto. E, dopo questo missile, negli schermi ne compaiono altri 4, quindi sono 5 missili partiti da una base. Un attacco deciso verso l'Unione Sovietica. E Stanislav Petrov, che per fortuna non proveniva dalla scuola di guerra di Mosca, ma dalla scuola di strategia, vede che c'è qualcosa che non funziona e decide che quello che appariva sui monitor non poteva essere vero. Ma attenzione, non aveva nessuna prova, era solo un'intuizione, un istinto. L'istinto che gli aveva detto: guarda, perché attaccano, e attenzione, solo con 5 missili? Ne hanno migliaia di testate nucleari. E attaccare e provocare un gigante che ne ha migliaia per rispondere con solo 5 è come andare da un leone e fargli solletico sotto la gola. Non suicidio, si fa un diciamo. Suicidio, appunto, un suicidio. Allora lui ha detto: non è possibile, deve essere un errore. Ma non sapeva che era proprio un errore, perché quella notte, non si era mai verificato prima, c'era una coincidenza astrale tra Sole, Luna, Terra e probabilmente una tempesta solare che aveva creato un falso positivo. Cosa mai verificatasi prima e quindi mai tarata, e quindi i satelliti erano convinti. Perché lui ha ritestato per 30 volte e ha rifatto tutte le verifiche 30 volte, e i computer per 30 volte hanno detto: è tutto vero. Faceva una verifica ogni 10-15 secondi e sperando che dicesse no, è stato un falso allarme. E lui con tutto questo è riuscito a non intervenire. Attenzione, ha fatto di più, perché dopo 30 volte che l'uomo non interveniva, il computer partiva da solo, perché ipotizzava che l'uomo poteva essere morto. E questo è il punto. Certo. Esattamente. E lui lì in quel momento ha alzato il telefono e ha detto: è un falso allarme, ho le prove, non rispondete, perché è certamente un falso allarme. Stava mentendo, perché lui non aveva nessuna prova. Una storia straordinaria. Roberto Giacobbo la racconta in maniera incredibile, un po' di suspense, perché tra poco ci ritroviamo. Traffico, poi saremo ancora insieme con Radio T. YouTube. Ed eccoci ancora insieme con Roberto Giacobbo, che ci sta raccontando la straordinaria storia dell'uomo che fermò l'apocalisse. Un uomo che intuì nel 1983 che questo attacco nucleare degli Stati Uniti sull'Unione Sovietica non era vero, era un falso allarme, prese un rischio incredibile, ma grazie a lui la storia è andata come è andata. Roberto Giacobbo ha raccontato questa vicenda in un libro, appunto, L'uomo che fermò l'apocalisse. L'ha incontrato anche per la TV, ma io ti chiedo, Roberto, in questi casi quanto c'è di cinismo, di freddezza giornalistica nel raccontare le cose, oppure quanto ti concedi invece tu di emotività umana? Qual è il mix che tu usi quando incontri degli uomini, dei personaggi, delle storie del genere? Io mi concedo molto l'emotività umana. Naturalmente devo fare in modo che l'elenco dei fatti sia rigorosa, e quello è il cinismo giornalistico, ma è un cinismo professionale nel momento in cui non c'è valutazione morale. Però di fronte a quest'uomo, francamente, ho fatto fatica a non fare qualcosa perché lui non la voleva. Cioè, io lo avrei rapito, l'avrei portato via, capito? Dico: troviamo qualcosa, non so cosa, ma vieni che ti facciamo fare una vita che meriti. Una vita normale, non si parla. Lui sta facendo una vita da indigente, non lo merita, e questa è una cosa terribile. E comunque tieni conto che in questo libro che è raccontato, che è vissuto, che è uno spaccato della nostra vita, è un pezzo di storia che non possiamo non sapere. Sì, perché giusto. O c'eravamo noi o c'erano i nostri genitori nel 1983, ne siamo direttamente testimoni. Non possiamo non sapere cosa è successo quella notte, perché è veramente quella storia che scopri all'improvviso e che capisci che faceva parte di te in una maniera determinante. Poi immaginati noi che eravamo bambini abbastanza piccini nell'83, assolutamente inconsapevoli, felici, assolutamente, senza sapere tutto quello che c'era attorno e sopra di noi. Noi ci siamo svegliati quella mattina mattina, e ricordo i telegiornali, c'erano le manifestazioni a Comiso per la base militare, c'era il governo Craxi se non sbaglio, c'era normale, un telegiornale, io ho visto quei telegiornali. No, ma soprattutto era il cuore del problema, le tensioni internazionali. Mi ricordo ancora che si parlava di politica, si parlava in questi giornali di Craxi, si parlava di Andreotti, si parlava della politica italiana, del tempo, eccetera eccetera. Quindi è curioso che in una giornata apparentemente normale, quella giornata poteva non esserci più, no? E capisci anche tanti meccanismi che sono, cioè mi piace dire, e ci chiudo il libro con una frase, dico: dove il diavolo ci ha messo la coda, perché ha fatto succedere questo incidente, diciamo astronomico, che ha creato un falso ai satelliti che non avevano mai sbagliato, era il più costoso e perfetto sistema. Cioè tu sei di fronte a uno che non ha mai sbagliato, perfetto, che sbaglia nel momento storico più giusto per creare un disastro, perché era in corso una guerra agli armamenti, c'era stato l'episodio di cronaca 3 settimane prima. E anche il fatto, in un certo senso, più credibile che potesse accadere un attacco notturno, esatto. c'era tutto, dove il diavolo ci ha messo la coda, un angelo ci ha messo una piuma. Esatto, e ha cambiato con questa piuma che ci ha messo l'uomo, l'unico uomo che poteva bloccare la cosa, ha cambiato quello che doveva stare lì quella sera, che era pronto probabilmente ad alzare il telefono e dire: siamo sotto attacco, rispondiamo, con un uomo che invece, forse unico, quella sera era già a casa, si è vestito di corsa, è corso al suo posto e ha fermato tutto. Perdendoci molto. Perché ha cambiato la sua vita. A noi piace spesso raccontare il dietro le quinte delle cose. Di fronte a queste storie, tu separi i mezzi con cui raccontarle, cioè dici: questa storia può essere solo un libro, no, non può andare in televisione, non la vedo, oppure cerchi storie che possano essere raccontate con tutti i mezzi? No, devono essere raccontate. Questa storia non può non essere conosciuta. Okay. Il fatto di essere qui da voi oggi per me è importantissimo, è importante quando ne parlo in televisione, è importante farlo sapere, perché è un pezzo di storia che era dentro di noi, nella quale siamo stati dentro, che ci ha attraversato, e quindi questo è fondamentale, perché dobbiamo capire chi siamo, dove siamo, cosa c'è intorno a noi, e questo è troppo vicino a noi per non saperlo. È bello conoscere chi ha costruito le piramidi o battaglie di Napoleone o se esiste vita nell'universo, è fondamentale. Questo invece è proprio sangue nostro, è terra nostra, è una cosa che c'è troppo vicina. Io ho un ricordo di un nonno che non ho mai visto, no? Che ha fatto la prima e seconda guerra mondiale, un nonno che mi è mancato tanto, ma che naturalmente è stato sostituito da mio papà molto bene, che era suo figlio, però mi ha fatto mantenere questa memoria, ed è una cosa che mi è molto dentro e molto vicina, e stiamo parlando di una cosa successa 75 anni fa. Certo, figurati. Questa invece è successa nel 1983 e poteva vanificare tutto quello che avevamo costruito e ricostruito dopo la tragedia della seconda guerra mondiale, poteva sparire tutto in un attimo. Però possiamo anche dire una cosa, che per i fatti stranoti come le piramidi, le guerre mondiali, ci sono gli storici, per i fatti non noti ci sono i giornalisti. Vabbè, quindi di Voyager non diciamo neanche una parola. Qualcosina di Voyager dobbiamo dire, perché io penso a tutti quelli che vanno in libreria, tutti quelli che vanno in libreria e che perché amano Roberto Giacobbo, vedono che c'è il suo libro, lo comprano e scoprono una storia straordinaria. Voyager amatissimo. Mamma. Voyager è una passione. Abbiamo cercato di rovesciare, come si dice in diritto, l'onere della prova. Non diamo più risposte, facciamo domande. Una divulgazione che è, come dire, non convenzionale, che partendo dalla storia, perché bisogna dire come stanno i fatti, si comincia a fare domande se tutto è andato come ci hanno raccontato i vincitori. Perché ricordatevi che la storia la raccontano i vincitori, e invece tante volte c'è qualcosa che è andato in maniera diversa. Senti, sei diventato famoso anche per l'imitazione di Crozza, di Katzenger. So che a te è divertito moltissimo, e sei ancora più bravo di Crozza a fare Crozza che fa Katzenger, sei ancora più bravo tu. Ma perché ho fatto tanta radio, ho fatto satira, quindi di satira ferisce, di satira perisce. Sì. Ma tieni conto che io questa storia l'ho saputa prima, perché il produttore di Crozza era stato il mio produttore quando stavo alla sette di Stargate. Stargate, quindi mi ha telefonato e mi ha detto: guarda, abbiamo intenzione di imitarti. Dico: qual è il problema? Ma andiamo avanti, fa parte del gioco, e quando ci mettiamo in ballo dobbiamo ballare, e uno si diverte, gioca, sapendo che la limitazione è una cosa, la realtà è un'altra. E poi io ho creato un piccolo aforisma che dice: solo chi sa ridere sa essere serio. Io cerco di ridere quando posso, perché la vita è bella, e quando c'è bisogno di essere seri, sì, è seri. Chi è sempre serio fa finta di esserlo, qualche volta necessariamente, come dicevo, finge. Allora io confido invece nelle persone anche come voi, che ridete, e quindi quando sarete seri lo sarete per davvero e non starete fingendo. Io sono molto contenta di aver avuto Roberto Giacobbo, che è un personaggio straordinario, con una storia bellissima. Tra l'altro l'ha raccontato con una passione che noi, sì, hai visto? Sì, che noi ascoltare, lì zitti a ascoltare. Di solito facciamo tante domande, no, però stavolta... è troppo troppo bello, e mi sono davvero tanto appassionata a leggere quest'uomo raccontato in maniera davvero da farci dubitare non della sua esistenza, ma che una storia così straordinaria possa essere accaduta davvero. Io penso che se molta gente conoscerà questa storia attraverso anche questo libro, forse qualcuno che potrà dare una mano a quest'uomo. L'uomo che Grazie. Fermò l'Apocalisse, edizioni Raieri, e l'uomo che racconta l'uomo che fermò l'Apocalisse. Grazie Roberto Giacobbo. Ma quanto siete belli. Grazie, ciao. Che meraviglia, Daniele, come sono contenta di questo ospitone. Bello, molto bello. Adesso ci facciamo anche una foto con lui, se ci stiamo nell'inquadratura, perché lui è molto alto. Vabbè. E noi non tantissimo. Un pochino. No, vabbè, tu no, ma io un pochino. Beh, bene. Italiano medio. E allora, quindi ci salutiamo, è stato bello. È stato bello per questa puntata. Ci ritroviamo la prossima. Ovviamente, ti aspetto qua sabato prossimo per una nuova puntata di RadioTube. Ringraziamo Andrea Roccobella, ringraziamo Cristian Goldoni. Sempre. Ci troviamo sabato prossimo. Ciao.